24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le previsioni economiche della Commissione Europea che attestano un preoccupante stallo nella crescita del vecchio continente, molto male l'Italia. Proprio nel bel paese ci si prepara al varo della legge di stabilità che fornirà una prima serie di risposte operative a Bruxelles in attesa della probabile nomina dell'economista Mario Monti a primo ministro dopo l'uscita di scena di Silvio Berlusconi. Nuovo governo anche in Grecia con Papademos Premier. Oggi vi parleremo pure di protezione civile europea e dei senza lavoro. L'Italia detiene il record degli scoraggiati. Apriamo dunque il notiziario con le previsioni economiche europee, anche se quella di ieri è stata una giornata importante pure sul fronte politico in Italia e in Grecia. Partiamo dalle previsioni di crescita, drastiche revisioni a ribasso della Commissione europea, specialmente sul 2012, su cui ora si attende un anemico più 0,5% del PIL nell'area euro a fronte del più 1,7% indicato 6 mesi fa. Non va meglio nell'Unione a 27. Secco taglio delle previsioni per Germania, più 0,8, Francia più 0,6 e Italia che crescerà di un modestissimo più 0,1%, un taglio secco rispetto al più 1,3% delle previsioni di primavera. Il debito pubblico italiano balzerà al 120,5% nel 2011 e scenderà solo nel 2013 al 118,7%. Roma non ce la farà, secondo Bruxelles, a raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013. L'economia italiana probabilmente riporterà una flessione nel quarto trimestre 2011. Pessime previsioni per la Grecia in recessione il prossimo anno, mentre la Spagna si attesterà su un modesto più 0,7%. E sentiamo ora il commissario europeo all'economia Olli Rehn che parla di previsioni fondamentali. I'm looking forward to the day when I can again bring you some good news. Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui potrò dare di nuovo delle buone notizie. Attualmente, invece, le prospettive per l'economia europea sono fosche. Queste previsioni sono l'ultimo campanello d'allarme. La crescita in Europa è allo stallo e c'è il rischio di una nuova recessione, a meno che non si agisca in modo determinato. La chiave per riprendere la via della crescita e dell'occupazione è riportare la fiducia nella sostenibilità dei conti pubblici e nel sistema finanziario e accelerare sulle riforme per sostenere il potenziale di crescita dell'Europa. Nel corso dell'estate, il peggioramento della crisi del debito sovrano e delle previsioni per l'economia mondiale hanno scatenato le turbulenze sui mercati finanziari in tutto il mondo. Le borse sono scese ovunque, ma in maniera più significativa in Europa. In special modo ci sono state gravi turbolenze sui titoli di Stato di paesi o entità da sempre considerati oasi felici e che invece hanno registrato gravi perdite. Inoltre, le incertezze circa l'esposizione delle banche sui debiti sovrani hanno ridotto sostanzialmente i prestiti interbancari e hanno portato a un peggioramento significativo delle condizioni di finanziamento. Secondo Rehn, l'Italia deve fare di più sul fronte delle pensioni. Il commissario ha giudicato lacunosi gli impegni presi finora dal governo. Sempre per Rehn, la prima cosa da fare in Italia è ristabilire la stabilità politica e la capacità di prendere decisioni. I governi dei paesi già sostenuti dal salvataggio Europa FMI, ma anche quelli particolarmente vulnerabili, devono essere pronti a valutare ogni misura aggiuntiva che si rendesse necessaria, lo scrive la Banca Centrale Europea nel bollettino mensile di novembre. E dicevamo dell'Italia che si prepara dunque a un cambio di governo, una volta che sarà approvata la legge di stabilità. L'Italia si trova di fronte a passaggi difficili e scelte particolarmente ardue per superare la crisi. L'Europa attende con urgenza segni importanti di assunzione di responsabilità. Saremo all'altezza del compito, così il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Sentiamo nel servizio quali sono le misure contenute nel maxi emendamento alla legge di stabilità. Dalla stretta sugli enti locali all'aumento dell'età pensionabile, passando per gli incentivi all'assunzione di giovani e donne, dismissioni, defiscalizzazioni, liberalizzazione delle professioni, riforma del processo civile. Niente norme sui licenziamenti. Eccole le misure anticrisi del maxiemendamento alla legge di stabilità. Dal 2013, prima novità, anche gli enti locali dovranno contribuire alla riduzione del debito pubblico. Ogni regione, comune e provincia avrà un obiettivo annuale da raggiungere raggiungere e sarà tenuta a rispettarlo. Pena le sanzioni previste per chi sfora il patto di stabilità, contingentamento delle spese correnti e stop alle assunzioni. Dal 2026, l'altra novità, salirà a 67 anni l'età minima per le pensioni di vecchiaia, sia per gli uomini che per le donne. Previste dismissioni degli immobili pubblici, il 20% almeno riguarderà carceri inutilizzate e caserme. Saranno tutti individuati con un decreto da emanare entro aprile 2012. Dismissione anche di terreni agricoli di proprietà dello Stato. Ribadita la mobilità per i dipendenti pubblici ritenuti in soprannumero, in caso di mancata ricollocazione scatterà la cassa integrazione pari all'80% dello stipendio, per un massimo di 2 anni. Previsto dal 2012 l'azzeramento dei contributi sugli apprendisti per i primi 3 anni di contratto, poi l'aliquota sarà del 10%. Introdotte inoltre agevolazioni sui contratti di inserimento per le donne, facilitazioni per part-time e telelavoro. Per i professionisti arriva lo stop alle tariffe minime e al divieto di pubblicità, insieme al via libera per la costituzione di società di capitale. Il pacchetto infrastrutture prevede infine la defiscalizzazione per la realizzazione di nuove autostrade. E per diminuire il contenzioso civile pendente, nei processi davanti alla Cassazione e alle corti d'appello in corso da oltre 2 anni, le parti saranno chiamate a confermare la persistenza dell'interesse. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tutti i pronostici indicano in Mario Monti il nuovo premier, anche se si è aperto un confronto interno agli schieramenti di centrodestra e centrosinistra su un eventuale appoggio alla nomina a premier dell'ex commissario europeo. Ieri Monti è stato lungamente ricevuto al Quirinale. È necessario che l'Europa invii un segnale chiaro ai mercati sul fatto che farà la sua parte, accertandosi così che l'Italia superi questa crisi, così il presidente americano Barack Obama. L'ipotesi di una rapida soluzione all'impasse politica con l'assegnazione a Monti dell'incarico di formare un nuovo governo ha sostenuto Piazza Affari. La borsa milanese ha fatto segnare la migliore prestazione in Europa, più 0,97% il FTSE MIB. Sentiamo. Effetto Mario Monti su Piazza Affari. L'ipotesi di una rapida soluzione dello stallo politico con l'assegnazione al presidente dell'Università Bocconi del mandato per formare un nuovo governo ha sostenuto la borsa milanese, risultata la migliore in Europa. Il FTSE All Share ha guadagnato lo 0,75% e il FTSE MIB lo 0,97%. Resta comunque alto il nervosismo in attesa di capire come evolverà la crisi del debito dell'Eurozona. A Milano tra le blue chip hanno rialzato la testa le banche grazie all'allentamento delle tensioni sui titoli di Stato. Unicredit ha guadagnato il 3,9%, il Banco Popolare il 3,6% e Intesa San Paolo il 2,6%. Maglia rosa di giornata è stata però Azimut più 7,3%, mentre Pirelli più 4,2% ha beneficiato dei target del piano industriale superiori alle attese, in calo del 2,2% invece A2A, dopo l'annuncio dei conti trimestrali. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lorenzo Binismaghi, consigliere esecutivo della BCS, è dimesso ieri sera, andrà a insegnare all'Università di Harvard. Vi abbiamo parlato in apertura di notiziario di importanti novità politiche in Grecia. Lucas Papademos, 65 anni, economista ed ex vicepresidente della BCE, è stato nominato premier del nuovo governo di coalizione. Sono convinto che i problemi della Grecia saranno risolti e che le scelte che il nuovo governo farà saranno decisive per il nostro popolo, ha dichiarato Papademos. Voltiamo ora pagina. A 10 anni dalla nascita, il meccanismo europeo di protezione civile ha portato a centinaia di interventi, dalla crisi nucleare del Giappone all'intervento attualmente in corso per il terremoto in Turchia. Secondo la commissaria responsabile degli interventi d'urgenza, Kristalina Georgieva, il coordinamento delle protezioni civili dei 27 permette di gestire le forze comunitarie anche quando uno o più paesi sono impegnati sul fronte interno. Sentiamo. Let me start by complimenting Italy for a very strong civil protection. Desidero innanzitutto cogliere l'occasione per complimentarmi con l'Italia per l'eccellente servizio fatto dalla protezione civile. E l'Italia sicuramente ha un'ottima protezione civile, però sempre più spesso noi abbiamo bisogno di un livello di coordinamento europeo, poiché i disastri che hanno colpito i vari paesi richiedono sempre di più una assistenza tempestiva che richiede un coordinamento fra tutti i vari paesi. A livello europeo significa fare unioni di tutte le nostre capacità per poterle utilizzare laddove i disastri colpiscono uno qualsiasi degli nostri stati membri. I teams che noi abbiamo messo su hanno una elevata formazione per poter salvare le vite e per garantire la protezione alle nostre popolazioni. Negli ultimi 10 anni ci sono stati 100.000 morti per via di disastri naturali e che sono costati un totale di 150 miliardi di euro. In Italia 2,7 milioni di persone sperano in un impiego ma non lo cercano più perché scoraggiati. Si tratta dell'11% della forza lavoro, una percentuale impressionante tenendo conto che la media europea è del 3,5%. Sentiamo Linda Laura Sabadini dell'Istat, intervistata da Valentina Furlanetto. In Italia le persone che non hanno un lavoro non lo cercano, ma sono disponibili a lavorare, sono tante. Sono 2.764.000 più dei disoccupati, l'11,1% delle forze di lavoro. E questo dato è un dato molto, ma molto più elevato della media europea, che risulta 3 volte più elevato della media europea, che è al 3,5%, perché nel nostro paese il fenomeno dello scoraggiamento è molto sviluppato. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.